cattivi e di violenti. Non ricordo che incidenti, che accidenti, se ti orienti e se ti senti, vedi di firmare, altrimenti non parlare. Che qui non va più bene, che la rete non ti tieni, precipiti nel fondo, insensibili al mondo, e la rete si tende e i buoni li difende, e chi non sta con la rete scende. Percepito di chi sgarra fuori tema, fuori rete, fuori schema. Ti vediamo mal di schiena, siamo tanti contro fame e sete, siamo tutto, siamo tutti nella rete. Oggi è notte, non mi muovo con il tegamino, con il carriere, il cumino. Non usare rosmarino, c'è un sito pieno di OGM lì vicino. Vedi di firmare, altrimenti non mangiare. Che qui non va più bene, che la rete non ci tiene a capire un po' più a fondo. È più comodo il mondo, meglio rete che asfalto, e dalla rete non salto. E chi si sente la rete sta in alto, in alto, in alto. Giù all'inferno, non è inferno, c'è quel caldo percepito.